Comincia la professoressa Gabriella Zarri che ci parlerà sul tema conventi, monasteri, ordini religiosi. Sì. Il tema della mia relazione, che indica evidentemente un campo di ricerca più che un titolo, comporterebbe che si trattasse separatamente delle visite alle chiese e benefici curati di monasteri esenti e delle visite alle monache. Sul primo punto non mi risulta vi siano state ricerche particolari o un'attenzione specifica al tema all'interno degli studi sulle visite pastorali. Sul secondo punto il numero dei contributi specifici è maggiore. Un'attenzione particolare allo studio delle visite ai monasteri femminili nell'età pretridentina e tridentina è tuttavia databile agli anni 60 e primi anni 70, in parallelo al filone dei lavori riguardanti il Concilio di Trento e la sua applicazione in Italia. Si devono ricordare almeno il saggio di Molinari sulle visite pretridentine ai monasteri femminili di Piacenza, la parte dedicata alle monache nell'analisi della visita apostolica di Torino nel volume di Grossi e Mellano e l'edizione della visita ai monasteri cremonesi condotta dallo Speciano alla fine del Cinquecento, curata da Marcocchi. I verbali della visita del vescovo Filomarino sono poi alla base del libro di Carla Russo sui monasteri napoletani, ricordato anche ieri. Oltre a questi lavori, che assumono la visita come campo specifico e privilegiato di indagine, si hanno poi diversi altri contributi che usano le visite pastorali come fonte per indagini di storia economica, demografica o sociale. La produzione più recente sulla professione monastica e la vita all'interno dei monasteri femminili non presta però particolare attenzione alla visita pastorale e si avvale piuttosto di altre fonti. Il mio intervento prende in esame specificamente una situazione locale, quella della Chiesa bolognese, e richiama alcuni aspetti relativi alla riforma dei regolari. La relazione si articola dunque in due punti. Primo, il problema del rapporto tra vescovi e regolari sulla giurisdizione dei monasteri femminili e i principali interventi papali in materia. Secondo, le visite pastorali delle monache di Bologna e il loro mutamento sulla base di una determinata campionatura. Il diritto di visita del vescovo nei benefici ecclesiastici con cura d'anime e nelle chiese parrocchiali esenti, sancito nel decreto di riformazione della sessione settima del Concilio di Trento, e l'obbligo di sovraintendere alla clausura delle monache anche nei monasteri soggetti ai regolari, sancito nel decreto de regularibus et monialibus della sessione venticinquesima, rappresentano un punto di forza nel riconoscimento tridentino dell'autorità episcopale, ma costituiscono anche uno dei nodi di maggior conflittualità in relazione all'esercizio della visita pastorale. Non meraviglia constatare che la lista degli impedimenti a residenza compilata da Cardinal Paleotti, vescovo di Bologna, all'indomani del Concilio di Trento, contenga un lungo e nutrito elenco degli impedimenti causati dai regolari e che un primo bilancio della visita alla diocesi, contenuto in una lettera inviata nel 1566 al Cardinal Prospero Simonetta, membro della Congregazione del Concilio, metta in luce il problema della disparità tra chiese amministrate dai religiosi e chiese soggette al vescovo. Vi citerei questa lettera perché è poi l'unico riferimento che faccio al problema delle chiese curate di giurisdizione degli ordini religiosi. Solo le voglio dire che per quello che ho sperimentato in questi pochi dì che ho visitato tutte le parrocchiali qui della città, ritrovo che quelle che sono al governo di frati sono tenute ad ordine quanto a paramenti, calici e ornato della chiesa, ma quanto al governo spirituale della cura delle anime sono maltrattate, perché i frati ogni anno si mutano di loco a loco, sì che non possono conoscere i parrocchiani loro, né infermi, né concubinari, né altra sorte. Ed io crederei fosse spediente piuttosto a levargli quella cura che a dargliene di nuovo. Pure Vossignoria con gli altri signori considereranno meglio e per l'avvenire ci avveranno quella considerazione che a loro parerà. Il problema non era di poco conto se si considera che al momento della stesura della lettera degli impedimenti a residenza le chiese della diocesi bolognese amministrate dai regolari erano una cinquantina e che ancora nel 1604 un terzo delle parrocchie di città, 22 su 61, erano soggette a monasteri di frati o di monache. Quanto alla difficoltà incontrata dai vescovi all'indomani del Tridentino nel mettere in esecuzione i decreti concernenti le visite pastorali delle chiese rette dai regolari, valga per tutto un altro documento che riguarda la diocesi bolognese. Anche in questo caso si tratta di una lettera inviata nel 1567 alla Sacra Congregazione del Concilio dal Cardinale Paleotti, che denuncia le ostilità incontrate nella visita alla chiesa dei canonici lateranensi di San Giovanni in Monte. In prima è qui un lor priore o abate, quale senza licenza e saputa più volte ha celebrato messa in pontificale non solo con mitra et baculo ma con la croce, et ha dato indulgenza al fine di 40 anni come li vescovi. Et volendo io vedere qua autoritate hoc faceret, non mi vogliono sinora mostrare breve loro, e dicono che mostrarono già una volta e che basta, ed intendo che fanno assai cose di più che esso non contiene. Di più, avendo essi qui un monastero di monache, ed avendo io inteso che non servono la debita clausura, e che admettevano continuamente donne secolari in eodem loco con le suore, contra i decreti del Concilio et bolle di Nostro Signore, avvertendoli che ciò non si facesse più, mi risposero che non erano compresi sotto questi ordini. Inoltre, hanno il loro luogo in refettorio dipinto Cristo Nostro Signore con tutti i discepoli in abito di canonici regolari, con gli rocchetti, il che, dando scandalo a chi lo vede, mi pare... Essi tuttavia lo mantengono così. Quando io fui a visitare la loro chiesa, sebbene li avevo prima ordinato che facessero sapere agli parrocchiani a ciò vi fossero presenti, siccome servono nelle visite alle altre parrocchie, essi però non lo volsero fare, ma neanche poté veder l'abate, né quasi alcun altro, né chi pur mi desse l'acqua santa, dicendo essi che bastava che io parlassi al cappellano che tengono. Et sacrista. Da queste poche cose che le narro, Vostra Signoria può considerare le molte altre che ci sarebbero da dire, che per non la fastidirle taccio. Non si intende qui ripercorrere l'antico problema dell'esenzione, ma soltanto ricordare che dopo gli amplissimi privilegi concessi ai regolari da Sisto IV con la bolla Mare Magnum, i tentativi di ricondurre i religiosi alla giurisdizione episcopale risultavano sempre più complessi. È vero che questo problema non poteva essere affrontato prima di una radicale riforma dell'episcopato stesso e della pratica della residenza, come denunciano fin dal 1513 gli estensori del Libellus ad Leonem Decimum. Pur affermando con forza l'ideale della comune e generale soggezione ai vescovi, i camaldolesi Giustiniani e Querini dichiarano infatti che gli ordinari prius tale esse portere ut ipsi propriam episcopi atque pastoris regulam observari didicerint. Tuttavia, anche prima che il Concilio di Trento riesaminasse a fondo carattere e prerogative connesse con il sacramento dell'ordine e l'ufficio episcopale, si erano compiuti tentativi di limitare le esenzioni dei regolari, specialmente sottoponendo a visita dell'ordinario le chiese parrocchiali soggette a frati o monaci e regolando i rapporti tra superiori religiosi, ordinari diocesani e parroci nella licenza delle predicazioni e nell'amministrazione dei sacramenti, come decreta il Concilio Lateranense V. Al problema della riforma dei regolari prima del Tridentino ha dedicato molti anni or sono un saggio Uberti Edin. Non si vuole qui approfondire l'indagine, ma soltanto richiamare alcuni momenti particolari in relazione al problema della periodizzazione della riforma dei regolari, come si accennava, si richiamava anche questa mattina. E soprattutto all'inizio del terzo decennio del Cinquecento, in connessione con l'estendersi anche in Italia delle idee della riforma protestante, il contemporaneo e conseguente dilagare del fenomeno dell'abbandono dei conventi e dell'apostasia, che un riesame del ruolo dei religiosi nella cura animarum diviene urgente. È nota una lettera inviata dal Carafa al Pontefice nel 1532, dove si afferma che dallo stato delle religioni dipende la salute e la rovina del mondo, appunto per sollecitare una riforma. E nell'anno successivo il nunzio di Venezia Girolamo Aleandro conferma a Pietro Carnesecchi che anche a livello politico si è operato un mutamento d'opinione nei confronti del clero regolare e secolare, fino a poco tempo prima impensabile. Ed in vero non solo il collegio di questo dominio grida ora contro gli frati, ma etiam Dio in ogni luogo pare che il mondo voglia pigliare nuova forma e si altera contro di loro, il che in parte deve soddisfare a noi preti e sforzarne di corrispondere al giudizio di laici, poiché credono che siamo migliori degli frati. Ma crisi dei religiosi, mutamento dell'opinione pubblica, più diretto coinvolgimento delle istituzioni cittadine nel governo e nella cura delle monache non sono sufficienti a diminuire il potere e l'influenza degli ordini religiosi, nei cui confronti neppure il più avanzato progetto di ricerca di riforma preconciliare, il Consilium Demendanda Ecclesia, suggerisce risoluzioni radicali. Esso si limita infatti a proporre l'estinzione dei rami conventuali degli ordini, impedendo loro di accettare nuove professioni, e a raccomandare di sottoporre agli ordinari diocesani i monasteri di monache governati dai frati conventuali. Ma anche questo appariva eccessivo alle ancora potenti organizzazioni monastiche e mendicanti, e non a caso la Reformatio Regularium del 1554, stilata sotto il pontificato di Giulio III con l'intenzione di sancirla senza sottoporla al giudizio del Concilio, è il momento di sospensione del Concilio, non prende in considerazione neppure la proposta di estinguere i rami conventuali degli ordini e, pur riconoscendo la necessità di riformare i regolari, ne affida la responsabilità e l'incarico ai superiori generali e ai cardinali protettori. In considerazione dei rapporti di forza ancora esistenti, in virtù dei privilegi accumulati dagli ordini religiosi e del persistente appoggio del papato, il decreto de regularibus et monialibus sancito nella 25ª sessione del Concilio Tridentino rappresenta una svolta significativa verso un ridimensionamento della presenza e dell'autonomia dei regolari nella cura pastorale e nel governo delle monache. Il Concilio di Trento, pur non giungendo all'espresso riconoscimento della superiorità del potere del Vescovo su tutte le cose ecclesiastiche della propria diocesi, aveva tuttavia potenziato l'autorità dell'ordinario ricorrendo a una formula di compromesso. I Vescovi potevano legittimamente intervenire nelle questioni riguardanti persone e luoghi esenti, tamquam sedis apostolici e delegati. Di fatto, anche questo limitato riconoscimento dell'autorità episcopale non venne in seguito sostenuto dai pontefici. Basterà ricordare che se la bolla in Principis Apostolorum Sede di Pio IV, che dichiarava la cassazione di tutti i privilegi, esenzioni e immunità contrarie al Concilio di Trento, rappresenta il punto più alto di aderenza del papato al Tridentino, essa veniva dopo pochi anni indebolita dalla bolla Etsi Mendicantium Ordines di Pio V, con cui si confermavano agli ordini mendicanti i privilegi del passato. Nonostante il persistente legame con gli ordini religiosi, il papato si mostrò tuttavia più incline a promuovere una riforma delle monache che, in accordo con le richieste di principi e città e con le disposizioni tridentine, investisse più direttamente gli ordinari diocesani e favorisse il graduale passaggio alla giurisdizione vescovile dei monasteri femminili governati dai regolari. In questo senso devono segnalarsi le bolle con cui Pio V sottrae i monasteri femminili alla giurisdizione dei frati conventuali e degli umiliati, sottoponendole ai vescovi locali. in direzione di una diminuzione dell'influenza e delle esenzioni dei regolari riguardo ai monasteri femminili, va pure considerata la bolla con cui Gregorio XIII revoca le licenze e gli indulti precedentemente concessi a qualunque persona di entrare nei monasteri, colpendo direttamente anche i religiosi che vi entravano per la visita, a cui permette di entrare nei conventi solo con poco seguito e in casi necessari. Appunto le visite dei superiori ecclesiastici nei monasteri retti dai regolari rimangono evidentemente, però si limita il seguito, i confessori eccetera. La frequenza degli interventi papali in materia di riforma dei monasteri, anche e specialmente in epoca post-tridentina, indica quanto lungo e contrastato fu il riconoscimento da parte dei regolari del diritto dell'ordinario di sovrintendere alla clausura delle monache e quanto frequentemente si dovesse ricorrere ad autorità superiori come il Pontefice o la Sacra Congregazione del Concilio per applicare il dettato delle norme tridentine. Bisognerà arrivare a Gregorio XV per trovare un chiaro pronunciamento in questa materia in favore dell'autorità episcopale. La bolla Inscrutabili del 1623, infatti, riconosce all'ordinario diocesano il diritto di intervenire nelle cause concernenti i disordini che avvengono nella clausura e di sorvegliare sull'amministrazione dei beni dei conventi anche nei monasteri esenti. Dichiara inoltre che i confessori secolari e regolari, ordinari e straordinari, non possono essere deputati alla confessione delle monache, anche se soggette ai regolari, se non con l'approvazione del vescovo, a cui è pure riconosciuta l'autorità di rimuovere quei confessori, anche se regolari, che egli non giudicherà atti a compiere il loro ufficio. Con la bolla Inscrutabili può dirsi definitivamente sancito il diritto dei vescovi di sovraintendere la clausura dei monasteri femminili, e a questa data molti monasteri che prima erano sotto la giurisdizione dei regolari sono già passati sotto la giurisdizione del vescovo e ne restano una minima parte poi nei secoli successivi. E assegna questa bolla ai vescovi anche una responsabilità nel controllo dell'amministrazione dei conventi soggetti ai regolari che non era prevista nella norma tridentina. Ma alla data del pronunciamento di Gregorio XV sono appunto ormai passati 60 anni dalla conclusione del concilio e alla decisione di Papa Ludovisi di assumere una posizione autorevole in materia non sarà stata estranea l'esperienza di guida della diocesi bolognese nel decennio precedente l'assunzione al pontificato e la conoscenza diretta dei problemi che ancora si presentavano nei confronti della riforma dei conventi. È necessario quindi ripercorrere brevemente alcune delle tappe più significative del rapporto vescovi regolari in relazione alla riforma dei monasteri femminili, tenendo presente che la visita pastorale, strumento principe dell'azione dei vescovi in senso riformatore, penso, è fortemente condizionata da privilegi e pressioni esterne nei monasteri soggetti ai religiosi. Qui posso riassumere, è noto che al Concilio di Trento rinnova la bolla della clausura periculoso di Bonifacio VIII e affida ai vescovi la responsabilità di sorvegliare la clausura anche nei monasteri esenti con l'autorità apostolica. E precisa inoltre che le monache non possono uscire dal convento nisi ex aliqua legittima causa ab episcopo approbanda e che nessuno può entrare nei monasteri senza licenza inscritto del vescovo. La sorveglianza della clausura da parte dei vescovi comportava dunque il controllo degli edifici monastici e la concessione delle licenze di ingresso nel monastero. Per quanto attiene l'uscita dal monastero, la formula generica del Tridentino, che vi ho letto prima, per qualche legittima causa, dovette essere specificata successivamente attraverso numerose bolle papali e anche pronunciamenti della Sacra Congregazione del Concilio. Non mi dilungo su questo punto, che è stato oggetto di studi da parte di Raimondo Cretens e ora della Medioli. Ciò che mi preme sottolineare è l'incertezza e la complessità della materia riguardante l'applicazione del Tridentino in fatto di clausura dei monasteri femminili e la perdurante conflittualità che si verifica tra vescovi e regolari in relazione alla riforma dei monasteri. Non soltanto i vescovi incontrarono ostacoli nell'applicazione delle norme conciliari a seguito delle prime visite pastorali, come si è visto nei casi sopracitati, ma anche i visitatori apostolici trovarono serie opposizioni, come prova una lettera del 1574 di Monsignor Ascanio Marchesini, visitatore di Bologna, i cui ordini relativi alla clausura dei monasteri furono contestati dai superiori delle varie religioni. Senza contare, ma questi sono casi noti, le opposizioni ai visitatori apostolici anche da parte dei ceti dirigenti e delle città. Sulla necessità e sui modi di riformare i monasteri femminili sottoposti alla giurisdizione dei regolari si discuteva ancora nel 1582, quando Carlo Borromeo invia a Gregorio XIII un articolato documento dal titolo «Considerazioni intorno al governo delle monache soggette a regolari». È un documento, credo, ancora sconosciuto, e appunto che non mi risulta pubblicato, che è piuttosto interessante e costituisce la traccia su cui poi successivamente il Paleotti avvia alla medesima data un progetto di riforma da attuarsi nei monasteri bolognesi. Dopo un lucido esame delle cause che rendono più difficile ai superiori degli ordini religiosi sovraintendere al governo delle monache, e alcune di queste cause sono il minor appoggio del braccio secolare, la frequente mutazione dei superiori regolari, l'alienazione della benevolenza delle popolazioni e quindi delle elemosine, se si procede con severità nell'imporre la disciplina monastica, questa è una cosa carina che non ci avevo mai pensato, e appunto non potevano essere troppo severi, sennò perdevano la fiducia e quindi anche le elemosine. Il Borromeo dichiara esplicitamente che i monasteri sottoposti ai regolari sono mal amministrati dal punto di vista economico e sono meno osservanti quanto alle musiche, addobbi e presenti, dare udienza e molte altre cose licenziose. Ad una vera riforma si può pervenire soltanto con la concessione dell'autorità apostolica agli ordinari diocesani anche sui monasteri esenti. Diceva sempre questo documento, evidentemente appunto dopo la bolla di Pio V questa disposizione del Concilio era stata contestata in sede locale. Quindi di nuovo Borromeo dice che è necessario avere l'autorità apostolica, come era avvenuto a suo tempo al Ghiberti, nella diocesi di Verona, e anche l'aveva ottenuto il Borromeo stesso nella riforma della diocesi di Milano. Ora invece, continua il documento borromaico, i vescovi non possono provvedere alla riforma perché impediti dalla possibilità di esaminare le monache e quindi di conoscere eventuali conflitti o indiscipline. Il vescovo di Milano propone poi esplicitamente di sottoporre tutti i monasteri alla giurisdizione dei vescovi, richiamandosi all'antica disciplina della Chiesa. Quindi tra le maggiori difficoltà incontrate nella riforma dei monasteri sottoposti ai regolari sta dunque, come denunciato anche dal Borromeo, l'opposizione dei religiosi alla visita personale delle monache, a quelle interrogazioni cioè che potevano svelare, se condotte in segreto e separatamente, eventuali indiscipline. Nel 1583 la Sacra Congregazione risponde a un'interrogazione del Paleotti confermando la facoltà del vescovo di condurre l'esame personale e appare decisa a sostenere in questo campo l'autorità episcopale. Ma la stessa decisione del Paleotti a rivolgere un quesito esplicito alla congregazione su questo punto indica anche la necessità che aveva bisogno di essere munito di un riscritto particolare. Quanto poi la visita del vescovo, anche accompagnata dall'autorizzazione a interrogare personalmente le monache, potesse rispecchiare e svelare la condizione ordinaria dei conventi, è questione perlomeno controversa. Una lettera del 28 aprile 1577 della badessa di San Lorenzo di Bologna, era appunto quel monastero di canonichesse regolari rette dall'abate di cui vi ho letto prima le vicende, Dunque, questa scrive appunto all'abate perché sia presente personalmente in occasione della visita del Paleotti e perché autorizza il superiore del convento a fare una visita preventiva. Ecco, quindi evidentemente c'era una preparazione molto precisa a come rispondere al vescovo, senza contare i ricorsi a Roma in relazione ad ordini particolari. Sempre riguardo al monastero di San Lorenzo, l'anno successivo il vescovo di Bologna si vede recapitare un asciutto rescritto da parte del cardinale San Sisto. Essendo stato esposto a Nostro Signore che per ordine di Vostra Signoria Illustrissima vengono ora molestate le monache di San Lorenzo di codesta città per conto della visita delle sue grade, la sua santità ha voluto che io le scrivi che si contenti di avvisare la causa che l'ha mossa a farlo, eccetera. Resistenza alle visite, fittizio adattamento disciplinare alle ordinazioni tridentine, conflitti di competenza, continui ricorsi alle autorità romane sembrano dunque caratterizzare i primi decenni dell'applicazione a livello locale delle norme conciliari. Ma è anche vero che la conflittualità doveva essere acuita dalla mancanza di disposizioni generali riguardanti la clausura stessa e la struttura degli edifici monastici. Non è senza significato che gli stessi visitatori apostolici dovettero limitarsi riguardo alla clausura a verificare esclusivamente le più generali norme atte a garantire l'isolamento dei monasteri da eventuali prospetti all'esterno e assicurare le più elementari precauzioni riguardo alla possibilità di ingresso e di uscita dal convento. Nella visita apostolica del Marchesini vengono prese in considerazione innanzitutto le condizioni e la posizione di muraglie, porte, finestre e campanili per poi verificare ed eventualmente deliberare in merito a parlatori, confessionali, finestrini della comunione, abitazioni del confessore e delle converse questuanti. Ma le disposizioni circa le grate, la loro qualità e il loro spessore fu un problema successivo e non rappresentò una norma di carattere generale. Anche in questo campo l'esempio borromaico fece scuola e si propagò quasi per contagio. Furono senza dubbio la pubblicazione del trattato borromaico sulle suppellettili ecclesiastiche e la pubblicazione del primo concilio provinciale milanese che indussero diversi vescovi a imporre una nuova normativa sulle grate monastiche. Ma non ovunque si accolsero e si impartirono le medesime prescrizioni. Inoltre, l'adeguamento degli edifici monastici alla clausura tridentina fu lungo e costoso e poté realizzarsi solo dopo alcuni decenni dalla chiusura dell'assise tridentina. Esso può dirsi compiuto forse soltanto nei primi anni del Seicento, quando le restaurate condizioni economiche dei conventi e la diminuzione del numero delle professe poté consentire una generale fase di investimento nell'ampliamento e nell'adattamento del convento alle norme edilizie che si andavano precisando e talvolta anche fu seguito dal rifacimento di chiese interne ed esterne. È per questo motivo che le visite pastorali del Seicento risultano assai più circostanziate delle precedenti in merito alle disposizioni relative alla clausura monastica e possono fornire insostituibili indicazioni in merito all'edilizia e talvolta anche all'arte sacra. Un sondaggio relativo alle visite alle monache condotte nel corso del 600-700 nella città di Bologna consente di cogliere alcune evoluzioni nel carattere e nella quantità e qualità delle informazioni fornite dai verbali di visita che, pur nell'infinita varietà dei casi locali, possono forse assumere carattere paradigmatico. Occorre premettere che, a parte la visita apostolica del Marchesini, per quello che riguarda la città di Bologna, non ci sono stati conservati altre visite alle monache nel Cinquecento. Possediamo invece le visite del Cardinal Colonna del 1633, cito solo le maggiori, le più importanti, perché altre ce ne sono, quelle del Boncompagni nel 1690, del Lambertini nel 1734-37 e del Malvezzi nel 1760. Al momento della visita a Colonna, la più accesa conflittualità fra vescovo e regolari appare ormai superata. C'è già stata anche la bolla inscrutabili. E a Bologna, come in altre città, in presenza di una più favorevole disposizione da parte del Papato e della Sacra Congregazione al progressivo passaggio della giurisdizione agli ordinari dei monasteri femminili, gli istituti retti dai regolari sono ormai la minima parte. Anche problemi più urgenti relativi all'edilizia, come si è detto, sono di fatto superati. Costituisce un'indiretta prova di questi mutamenti un circostanziato questionario relativo alle visite alle monache redatto nel 1624, che dà disposizioni circa la visita personale e locale dei monasteri femminili, fornendo una griglia di lettura dei verbali della visita a colonna che si attiene scrupolosamente al questionario. La visita ai monasteri ha inizio con l'ispezione della chiesa esteriore, in cui si considera lo stato materiale di conservazione degli edifici, degli arredi, si controlla poi la clausura, le grate, il sito del monastero, cioè la sua condizione di isolamento, e le abitazioni dei confessori e dei fattori che devono essere separate dai monasteri. Segue poi la descrizione dell'interno dei monasteri, a cui si fa accenno anche agli eventuali oratori, immagini sacre e cappelle presenti nel monastero stesso. Poi vi è una parte del questionario che si chiama gli ordini da farsi nella visita per le monache. Questa parte del questionario corrisponde nella visita alla cosiddetta visita personale, cioè all'interrogatorio delle monache. E per quanto nella visita non venga riportata la visita alle singole monache, l'interrogatorio, cioè non riporta i verbali, diciamo, delle dichiarazioni delle monache, però vengono fatti riassuntivamente date riassuntivamente le loro risposte sotto queste voci. Quindi questo, gli ordini da farsi nella vita alle monache, contengono anche notizie sulla vita spirituale e religiosa del convento. Le domande si riferiscono alla frequenza ai sacramenti, alla recita ai divini uffici, all'orazione mentale, all'ordine da osservarsi in dormitorio, refettorio, eccetera. Un posto a parte viene riservato nel questionario alla visita da condursi nelle chiese curate dipendenti dai monasteri femminili. Ecco, per quello che concerne le chiese curate dipendenti dai monasteri femminili, si cerca soprattutto di conoscere l'identità e la qualità di rettori e cappellani e da chi vengono eletti, e poi la loro entrata, eccetera, come nelle altre chiese sostanzialmente. Come si è detto, la visita a colonna ai monasteri si attiene scrupolosamente alle diverse domande contenute nel questionario e fornisce quindi informazioni particolarmente significative in rapporto all'edilizia monastica, all'architettura dei monasteri, all'immagine, cappelle in esse contenuti, e danno anche alcune notizie sulla vita e la pratica religiosa delle monache. L'attenzione prestata dalla visita pastorale del 1633 all'edilizia monastica si giustifica principalmente con la necessità di verificare l'ormai raggiunto adeguamento dei monasteri alle norme tridentine. Le visite successive sono assai meno circostanziate al riguardo e dedicano piuttosto un'attenzione maggiore alle questioni economiche, agli obblighi di messa, ai decreti di riforma. Già in questo senso si qualifica la visita a Boncompagni del 1690 e ancor più quella del Lambertini del 730-37. La visita alle monache si trasforma per il vescovo bolognese Lambertini, che poi diventerà Papa Benedetto XIV, in una occasione per istruire le religiose stesse. I decreti di riforma superano infatti di gran lunga lo spazio riservato alla visita personale e locale. Nella stessa linea qui riscontrata si muovono anche le visite pastorali del Cardinal Malvezzi di un ventennio successivo. Scarse risultano le informazioni relative all'edilizia monastica, che evidentemente risponde in tutta la norma, e maggiore attenzione è rivolta ai decreti di riforma. Il sondaggio bolognese, pur mostrando una notevole varietà nella conduzione e compilazione delle visite pastorali, rispondente evidentemente anche alle diverse personalità dei vescovi che si succedono, sembra prospettare un'utilizzazione delle visite pastorali alle monache in chiave di storia sociale piuttosto che di storia religiosa. non sono estranee talvolta elementi che possono rappresentare squarci della vita di devozione che ha per teatro i monasteri, ma documenti di questo tipo costituiscono forse un'eccezione. La possibilità di indagare nella vita interna dei monasteri e nelle eventuali dinamiche di gruppo che possono affiorare dalle deposizioni delle monache sembra estranea alle visite pastorali ordinarie, dove non viene riportato ufficialmente il verbale dell'interrogatorio personale, e pare piuttosto doversi cercare in visite occasionate da precisi motivi locali o disciplinari, come infatti è stato studiato a una di queste visite seicentesche a un monastero di Bologna, che era stata occasionata appunto da un litigio all'interno del monastero, e che ha un litigio per causa di musica, che è stato studiato dallo storico americano Craig Monson in un libro sulla musica nei conventi. Oppure appunto la parola delle monache può essere cercata in documenti dell'Inquisizione, ma non in visite pastorali. Quindi quando le carte dei visitatori o degli inquisitori ci restituiscono la parola delle monache, il profilo dell'istituzione monastica, del suo ruolo sociale e simbolico nella città di antico regime, può indubbiamente arricchirsi di significati umani e religiosi che invece i documenti e le testimonianze superstiti delle visite pastorali consentono solo di ipotizzare. Credo che dobbiamo ringraziare tutti Gabriella Zarri per questa sua esposizione così nitida e così ricca, che si inquadra direi molto bene nei temi che fino a qui abbiamo trattato.